Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo e torniamo da Milano dopo un sabato a Sanremo. Ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora poi dalle 17 alle 18, sempre in diretta, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per tenerci compagnia, le nostre coordinate, c'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola, con gli hashtag cancelletto ISDV, ma anche poi cancelletto RadioTube, che useremo soprattutto nella terza ora. Il numero per i vostri SMS e anche WhatsApp, 349-238-6666. Vi anticipo già due momenti importanti. Nella seconda ora del sabato del villaggio avremo un ospite che io adoro e che sono sicura vi farà piacere conoscere, vi sorprenderà davvero, Valerio Scanu, direttamente da Sanremo. E poi dovuto un ricordo di Umberto Eco, ma anche tutte le coordinate per imparare a conoscerlo per chi non lo avesse mai scoperto davvero. Ma quali sono i temi della prima ora che passeremo insieme? L'appuntamento con il gastronauta, la tendenza è la colazione. Poi andremo insieme in Franciacorta. Le uscite al cinema con le novità in sala. Con Enrico Pagliarini parleremo di sicurezza. Ma iniziamo, e inevitabilmente, con un altro campione di Sanremo, e beh, il vincitore di Radio 24. È passato il tempo, ci ha scavato dentro, la vita che ci ha trasformato, il mondo è cambiato da allora, ma ricordo ancora tutti i giorni persi, adesso che siamo diversi e niente sappiamo di noi, io non dimentico, non ti dimentico. Il primo amore non si scorda mai. Non è stato spento quel profumo intenso, parole, vestiti, canzoni e certe emozioni rapite lungo le salite dentro a questo viaggio, e ancora mi fanno coraggio parole lasciate da te che non dimentico. Non ti dimentico, il primo amore non si scorda mai. Chissà se Enrico Ruggeri se la ricorda, io la so tutta a memoria. Buongiorno Enrico. Buongiorno a tutti. Allora Enrico, posso chiederti quando partono le prime note adesso, che emozione, che immagine ti viene alla mente? Beh, in realtà è quella del primo amore, Cioè è abbastanza mirata almeno nelle contingenze. Poi in realtà, come ho già detto più volte, insomma, è una canzone su quel periodo della vita che abbiamo avuto tutti, sui grandi imprinting, sulle prime volte, sulla prima volta che sei uscito di casa da solo, o che hai visto un concerto, o che hai messo il jack in una chitarra e per la prima volta hai sentito com'era suonare la chitarra elettrica. Insomma, ognuno ha delle prime volte con sensazioni forti alle quali non era ancora abituato. Questa è la canzone. Però mentre cantavo, ma adesso invece le immagini di Sanremo, quando la senti, ti vengono un po' di sensazioni di quella settimana lì magica, eh? Beh sì, è stata una settimana molto, molto, molto bella per me, perché avevo un bel gruppo di lavoro, devo dire. Ci siamo molto divertiti, insomma tu l'hai conosciuto e costeggiato, posso dirlo in diretta in radio, ma avete fatto ubriacare una sera, io che non bevo niente. Ma io mi ero portato apposta il medico da casa, medico personale, come i Rolling Stones che hanno il defibrillatore sul palco, no? Perché volevo bere, volevo fare qualsiasi cosa, però la notte volevo dormire e la mattina volevo essere sveglio senza fare cose illegali, quindi avevo bisogno del medico. E quindi però si beveva, ecco. Beh, tu che hai avuto la sventura di venire arrivare a tavola con noi, insomma, devo dire la verità, io che sono una ragazza morigerata, però mi sono divertita molto. Mi sembra, non è che è stato faticosissimo, insomma, convincerti. Sono corruttibilissima, non ci vuole niente. Enrico, in quanti ti hanno chiesto se ti aspettavi questo risultato bellissimo? Devo dire, arrivando lì l'aria che tirava era televoto, ragazzine, bambine, sì, bambinetti. Sì, perché tutti e quindi io avevo paura di venire eliminato, di non cantare il sabato. Poi è vero anche, per essere onesti, che l'appetito via mangiando, quindi io lì insomma ero quello più cercato, mi sono reso conto, insomma era il decimo festival. Quindi ti al mercoledì hai già capito se le cose si sono messe bene o male. Dopo la prima esibizione hai già sentito anche il pubblico. Tirava un'ottima area, quindi devo dire, anzi, insomma, già dopo le prove io ti posso dire dopo che le prove così, è già cambiato tutto e quindi insomma alla fine è vero che un pensierino al podio ce l'avevo fatto, però è anche vero che poi veramente non conta nulla, insomma possiamo raccontare di decine di canzoni che sono state eliminate, sono stati grandi successi o sono arrivate in fondo. Ti cito solo Il ragazzo della via Gluck e Vita spericolata, per dirtene due, e altrettante canzoni che hanno vinto il festival e che poi sono sparite dalla circolazione, per cui insomma quello che conta poi sono altre cose al festival. Ma arrivare a un passo dal podio è un dispiacere o andava bene così? È un dispiacere che dura sei ore, insomma. Poi la mattina dopo già stavo pensando alla tournée. Il televoto sarebbe stato veramente divertente con te, gli stadio vabbè, però insomma non importa, ecco, la mattina dopo ero già proiettato verso stavo già ragionando su come sarà il palco della tournée cose, insomma ero già, stavo già guardando avanti. Secondo te cambierà qualcosa dopo questo Sanremo andato benissimo nella tournée, tra chi vuole venirti a vedere perché ti ha scoperto, riscoperto? Succede, Sanremo è anche questo, insomma, è gettare un ponte verso un pubblico che non è il tuo. Il fatto che l'album sia entrato in classifica anche su iTunes, cioè su quelli che lo scaricano senza comprarselo, cioè senza comprare il fisico, dimostra che è una cosa non da me, insomma normalmente i tuoi comprano di più, esatto, il disco fisico. Comprano il fisico perché magari mi seguono da anni eccetera, quindi io non sono praticamente mai entrato nelle migliori posizioni sugli scaricamenti, invece questa volta è successo e questo è un segnale preciso del fatto che ci sono anche persone che come dire, si accostano a me o per la prima volta o persone che prima erano tiepide che adesso si sono interessate. C'è qualcosa che non ti è piaciuto di questo Sanremo? No, devo dire, tutto è andato esattamente come mi aspettavo, anche dal punto di vista, è chiaro che conosci migliaia di persone, ci sono centinaia di giornalisti, alcuni mi sono più simpatici, altri no, conosci discografici, conosci cantanti, alcuni mi sono più simpatici, ma come nella vita, tutto centrifugato in una settimana. Anche perché gli ascoltatori hanno un po' imparato a conoscere la vita sanremese, anche tramite il tuo Sanremo di Ruggeri che ci ha tenuto compagnia tutte le mattine. A che ora ti svegliavi tu la mattina? 10:30. Che devo dire non è tardi, perché non è tardi, 10:30 andando a letto alle 4:30. Quindi comunque le mie sei ore, ho fatto festival in cui ero anche più giovane e malandrino, in cui non riuscivo a dormire sei ore. Sei ore è un'ottima media per quelli del festival. E poi si comincia subito con le interviste. Comincia con le interviste e fai tutto il giro di Sanremo 100 volte, quindi vai all'Ariston, poi vai al palazzetto di là, poi vai nelle radio, poi torni in albergo perché magari c'hai la mezz'ora in cui sono dei giornalisti che vengono da te. Io devo dire, ma non per come dire per essere un blagueur, ma per essere un pragmatico, avevo la più bella suite di Sanremo. Cosa aveva di così bello? Intanto che era grande, e questo l'ho fatto perché come sai, insomma, negli alberghi, nelle hall degli alberghi c'è di tutto, cialtroni, personaggi sedicenti, giornalisti, fan, c'è qualsiasi cosa, quindi tu non riesci a fare nulla. Nel momento in cui li fai salire nella tua suite, fai la tua porca figura. vedi, ti guardi questa è l'esperienza, ma soprattutto, questa è l'esperienza, ma soprattutto fai delle belle interviste con il giornalista che è tranquillo, quindi sono soldi ben spesi, insomma. Ah, vedi, beh, questa è la grande esperienza, l'esperienza di Sanremo. A Sanremo conta tantissimo, ahimè, su tutto, perché io vedevo magari dei ragazzi o anche dei discografici giovani che magari danno troppo credito a uno che, non, che è lì per caso con un microfono, e poi magari invece mandano al diavolo uno del Washington Post. Cioè, essere esperti a Sanremo fa la differenza. E come si fa a resistere a una batteria di interviste tutte uguali, una dietro l'altra? Ma intanto perché riesci a vedere degli aspetti diversi, e poi intanto io magari mentre faccio l'intervista con magari il ragazzo della radio di Pescara lo guardo e penso chissà se è fidanzato, chissà da quanto tempo fa sto mestiere, cioè lui studia me ma io delle studio storie, lui. Il raccontatore di storie si immagina delle certo, storie, dico, ma chissà com'è, che tipo è questo, e così mi passo il tempo, intanto a volte magari un po' col pilota automatico rispondo. Poi un'altra cosa che gli ascoltatori non sanno, le prove. Uno si immagina che uno vada sul palco e provi la canzone 10 volte finché non va bene. No, a Sanremo è proprio velocissimo. Beh, eh? No, sì, però hai fatto 2 prove prima dell'inizio del festival. Ma io devo dire, lì ero tranquillo perché avevo suonato, cioè avevo, tutti quelli che erano lì sul palco della parte sinistra, cioè la ritmica, basso, batteria, tastiere, erano tutte persone che erano già state in tournée con me o avevano suonato nei miei dischi. E perfino della parte destra, degli archi che tu hai usato tanto, perché che proprio usato tanto. Anche visivamente c'erano, si capiva, molti che ragazzi, perché io nel 94 feci una tournée con un'orchestra di archi di sole donne, e quindi molte di quelle donne le conoscevo già. Chiama lo scemo musicale. Ruggeri, sole donne. No, certo. Mai stato scemo. No. Adesso Enrico, dopo esserti ripreso più o meno dalle fatiche, perché io non mi sono ancora ripresa del tutto, c'ho ancora mal di schiena, guarda, ma io sono anziana, a differenza tua. Certo. Sai che quando si è vista l'immagine di Mistero, no? Che c'erano tutti i vincitori in fila, io ho guardato e ho detto, guarda, c'era Ruggeri quando era vecchio. Beh, un po' me l'hanno detto in molti, devo dire, è ovviamente gongolo, il mio ego è gongolo. Sono arrivato in forma. Grandissima forma. Adesso appunto ripreso dalle fatiche, tue tappe, avvicinamento quindi a questo punto al tour. Il primo gesto è stato quello di venire a Radio 24 a salutare. L'ultimo amore non si scorda mai. L'ultimo amore, ma perché è vero, mentre per una donna si dice che sia molto importante il primo amore, per noi uomini l'ultimo è quello fondamentale. E no, beh, poi sì, c'è un sacco di cose da fare, sto lavorando al romanzo. Che esce a maggio. È vero, sì, è praticamente uno spin-off del precedente. Del precedente, bravissima. E poi c'è la tournée, cioè c'è il disco che è uscito, quindi ci sono un po' di come si chiamano? Sell-in, no? Quando vai a firmare le copie. Adesso te lo dico, perché c'è un nome tecnico che adesso usa, va molto. In italiano lo chiamano il firmacopie. Il firmacopie, ma ce n'è uno più affascinante come nome. Comunque, e poi parte In store, bravissima, in store. E poi parte la tournée a fine marzo, siamo pronti, il 4 debuttiamo. E poi manca poco, fine marzo sembra 4 aprile partiamo, sì. E abbiamo insomma un po' Milano, Roma, adesso poi ci sono le date ovunque, quindi non sto a ripetere, però Napoli, Torino, tutte le grandi città in teatro, e poi vediamo quest'estate. Ah, vedi, già in teatro, poi vediamo. Perché ma sì, perché me qualcosa voglio farne 2 di tournée, cioè una quella teatrale nella quale parlo, racconto, faccio tutto, e poi un po' di casino quest'estate. Vabbè, un periodo pazzesco allora, Enrico. Ma sì, devo dire, insomma, non sono abbastanza abituato, ecco, io sono uno che tende a muoversi, che si ammala se sta fermo, quindi poi insomma il tempo stringe, per cui ci sono tante cose da fare. Però insomma, al di là di questo, è un periodo per il quale Sanremo è stato un ottimo viatico, devo essere sincero. Noi di Radio 24 ti abbiamo seguito con tutta la passione potevamo, con un grandissimo affetto, sia noi che ci lavoriamo, sia agli ascoltatori. Ma a me piace, a me quando entro in una squadra, ma mi piace come concetto. Sai che i colleghi mi scrivevano dalla redazione a Sanremo, mi chiedevano, ma Ruggeri, ma come l'hanno preso? Ma com'è andata la prova? Erano tutti molto attenti, certo. Molto preoccupati. Io Fin dalla prima prova ho detto tranquilli ragazzi che qua spacca. Qua spacca. Qua spacca. Noi giovani parliamo così. Ma guarda, io spacca tantissimo. Grazie Enrico per grazie essere Manta. Stato con noi. Ancora complimenti perché è stato un Sanremo grandioso. Grazie, grazie. A presto. Ti aspettiamo ancora. Ma è quando vuoi. Il sabato del villaggio. Diretta col sabato del villaggio, dopo le informazioni del traffico, vado via, andiamo tra poco a trovare Omar Pedrini, che è un appassionato di vini, un appassionato di buone cose, un appassionato di cibi, un cultore di Veronelli. Lo faremo tra poco, almeno idealmente, da un po' che invece non lo chiamiamo in diretta, dobbiamo chiamarlo presto, lo faremo idealmente perché andremo un po' dalle sue parti con il nostro gastronauta, che abbiamo già in linea. Davide, buongiorno. Buona giornata. La scorsa settimana tutto Ligure, perché insomma eravamo a Sanremo, quindi ti abbiamo coinvolto sulla Liguria. Invece tra poco ti coinvolgeremo, lo diciamo, sulla Franciacorta, perché è un grande è un grande territorio che offre un sacco di cose buone. Però prima partirei dalla tendenza, se ti va. Hai scoperto una tendenza particolarmente così attuale in questo periodo. Ma guarda, diciamo che in Italia la prima colazione, per così dire, è sempre stata snobbata, a cominciare anche dagli alberghi, perché negli alberghi italiani la media qualitativa della prima colazione, non dico che è indecente, però mediamente non è all'altezza di molti altri paesi. In alcune regioni è molto curata, ad esempio in montagna è molto curata, però diciamo che negli ultimi anni insomma qualcosa è migliorato. Però questa tendenza della prima colazione, che nessuno fa a casa, sono pochi quelli che la fanno a casa, diciamo la verità, molti prendono un caffè Precox e quindi diciamo che molti la curano a casa, però cominciano a curarla fuori, e ci sono molti luoghi, molte pasticcerie per esempio, ma anche altri luoghi che si stanno trasformando, che stanno così preparando e proponendo la prima colazione per un motivo, che è diventato anche un luogo d'incontro. Cioè molti non dicono più ci incontriamo a pranzo, magari anche per parlare di lavoro o per incontrarsi, ci incontriamoci a colazione. Che non vuol dire, come si diceva soprattutto un tempo, la colazione come pranzo, per distinguerla dalla prima colazione, ma la colazione proprio come prima colazione, breakfast. Come prima, poi del brunch ne parleremo un'altra volta. Anche perché diciamo mi dovrai dire se va ancora di moda, ne parliamo qualche volta. Va bene, ne parliamo. No, dicevo quindi che c'è questa tendenza di farla fuori, molti scappano da casa velocemente, però magari per parlare con qualcuno, incontrare qualcuno, si incontrano al mattino presto e va la colazione. Tra l'altro c'è anche questo gioco, in Italia colazione molti le intendono anche il pranzo del mezzogiorno, mentre nel mondo anglosassone c'è una distinzione, breakfast e lunch, invece da noi è diciamo colazione, io intendo la colazione del mattino. E allora ci sono, come dicevo, sviluppati molti molti posti che, devo dire, quello che offrono è molto italiano. Allora cominciamo da Milano. A Milano propongo un posto che si chiama Gogol e Company, dove vengono serviti ovviamente cappuccino, caffè, con una bella varietà di brioche che vanno dalla crema integrale alla marmellata, al muffin, poi ancora yogurt e frutta fresca. Sempre a Milano, un altro posto interessante, è la pasticceria Panzera. Qui ho mangiato un ottimo kefir, devo dire, ecco, a me piace molto il kefir, forse qualche volta più della brioche, anche perché in molti posti le brioche non sono fresche. Questo diciamolo, e poi ti rovina tutta la giornata. Ti rovina tutta la giornata. Io quando scendo in molti alberghi che riscaldano le brioche, devo dire che quell'odore veramente mi fa scappare immediatamente dall'albergo o dal bar. Alla pasticceria Panzera ci sono anche degli ottimi sandwich freschi e devo dire che alla vista sono molto accattivanti. E poi c'è un'ottima cioccolata in tazza, ecco, anche qui la cioccolata in tazza deve essere ben fatta, addirittura bisognerebbe tenerla, diciamo, farla girare nell'acqua per tenerla calda, ma ormai anche questo purtroppo non lo fanno più perché gli strumenti si sono modernizzati. A Parma c'è un posto interessante che si chiama Panificio 10, dolce e salato, qui si può scegliere, si possono scegliere anche panine e focacce, oltre torte e anche qui una varietà di brioche. A Roma invece suggerisco Made Creative Bakery, dove è molto americano perché sono bagel, caffè americano, cookies e cupcakes, quindi cupcakes. Quindi devo dire che qui è molto americanizzato, però c'è oggi molto però la buoni, moda di queste cose. Quindi. A Torino c'è la Locanda Leggera, ecco qui pane, burro e marmellata, una cosa che io amo e mi piacerebbe molto mangiarla spesso, pane, burro e marmellata al mattino, con magari con latte e cereali, però si possono fare anche le uova al bacon. A Bologna invece il panificio pasticceria Zanasi, qui c'è spremute varie pasticcerie e c'è una brioche interessante ai frutti di bosco. Ecco, io diciamo ho completato il giro, potrei continuare a raccontarne di tanti magari, altri. Però... magari facciamo anche altri appuntamenti. Io ti dico, faccio sempre la colazione a casa, perché mi piace andare con calma e arrivando in redazione più tardi comincio a lavorare tranquilla a casa o a leggere. Però faccio sempre la colazione fuori il venerdì mattina, perché per me è un ritrovo di famiglia. Ci ritroviamo e usciamo a fare la colazione venerdì mattina. Bello, sì, un bel rito. Sì, io invece la faccio il sabato, l'ho fatta anche stamattina, in un bar però, in una pasticceria, vabbè. La pasticceria San Carlo, guarda, lo dico anche. Quando qualcuno vuole venirti a cercare... darà uno sguardo se sei lì il sabato mattina. Davide... tra Pantera, insomma, le giro un po', ogni sabato ne provo una nuova. Fantastico. Per vedere appunto se era una tendenza, ecco. Ah, certo, no, solo per sperimentare, mica per, certo, per curiosità giornalistica. Davide, Franciacorta abbiamo detto, bello. Abbiamo Franciacorta, anzi, tanti saluti a Omar, che è un amico. Grandissimo, Omar. Quindi, qualche volta lo chiamiamo insieme, dai. Volentieri. Cominciamo questo viaggio... E devo dire che oltre a mangiare in Franciacorta si beve molto bene e allora io devo citare delle cantine bellissime da visitare dove sono molto gentili, spiegano tutto e allora potremmo cominciare da Berlucchi perché la famiglia Zigliani in particolare, famoso. Il primo della famiglia Zigliani è stato quello che ha dato il via al boom della Franciacorta, poi vale la pena il palazzo dentro di visitarlo perché è molto interessante, compresa la cucina. Poi Cadelbosco è diciamo anche questo molto molto noto, anche questa è una cantina che vale la pena di visitare, di vedere insomma la locazione perché è veramente molto bella. E poi Bella Vista del gruppo Moretti, anche qui sicuramente c'è da vedere, c'è da fare un viaggio in cantina, ma soprattutto visto che ora dalle cantine passiamo al cibo, devo dire che il gruppo Moretti ha dato il via a diversi ristoranti, allora poi mi sono dimenticato, no, volevo aggiungere altre due cantine, Monterossa e Uberti, anche queste due valgono la pena. E dicevo ristoranti, allora cominciamo da quello che un tempo era il luogo sacro di Gualtiero Marchesi, l'Albereta, ora Marchesi se n'è andato, si chiama Leone Felice, devo dire che c'è uno chef molto molto giovane che ha saputo ben non far sentire la mancanza con una cucina completamente diversa. Fabio Battista diciamo non è il solito presuntuoso, ma secondo me diventerà veramente un grande chef e di lui ricordo una pasta fredda, guarda caso mi ricorda Marchesi, ma questa è completamente diversa perché è una combinazione di ingredienti diversi, cioè c'è un aglio, olio, peperoncino e un guazzetto di granchio, quindi è una, secondo me la pasta fresca anche questa sarà una tendenza dei prossimi anni. E poi ancora un risotto al pomodoro fatto in maniera particolare, a me piace molto il risotto al pomodoro e lì l'ho veramente veramente gustato. Poi triglie, delle triglie veramente, cotolette di triglie al bergamotto, anche questo un piatto che vale la pena di assaggiare. Bene, una cucina leggera perché da quelle cucine lì, ovviamente in maniera distinta, escono i piatti per la clinica di Henri Chenot, quindi diciamo che c'è grande, certo, cura, quindi, appunto, agli ingredienti, cura anche alla leggerezza dei piatti. La carta dei vini è veramente molto molto interessante, ci sono grandissime bottiglie. E sempre nelle vicinanze c'è un locale completamente diverso, molto semplice, molto gustoso, soprattutto chi ama le alici. Si chiama, guarda caso, Burro e Alici, ed è di un personaggio di Cetara, noto, che si chiama Torrente, veramente un anfitrione, uno molto bravo, sempre allegro. Ebbene, qui chi ama pane, burro e alici, chi c'è che non ama pane e burro e alici? Io credo che sia uno dei mangiari più semplici, però... Ah, io sono sempre per il semplice, quindi voto pane, burro e alici, sì. Io camperei di burro, pane e alici, ma le alici devono essere veramente buone, magari lo carnose. Lo diciamo sempre, perché... quando i piatti sono semplici conta soprattutto la qualità delle materie prime, non puoi barare lì. Mi spiace dire che le migliori alici sono del Cantabrico, che sono spagnole, soprattutto quando parlo di Torrente, appunto, di burro e alici, che è di Cetara, ma a Cetara c'è una cosa che gli spagnoli non hanno, e cos'è? La colatura di alici. Ah, e allora, certo, la colatura di alici, che molti pensano o ritengono sia il garum dei romani, ma in realtà è un prodotto che io chiamo un giacimento gastronomico importante, perché viene ottenuto con una lunga preparazione tradizionale di questo posto che si chiama Cetara, e in giro ci sono tante imitazioni, perché ci vuole pazienza, tempo e bisogna sapere la tecnica, mentre in giro gira della colatura, che è sicuramente a base di caramello, quindi attenzione anche al prezzo. Perché per fare la colatura bisogna avere tante alici, metterle sotto sale in un terzigno, poi spingerle e fare in maniera tale che poi goccia su goccia Accidenti. Si formi questa boccettina. Ed è in questo paese, mi piace dirlo, perché c'era una tradizione bellissima, che quando ancora la colatura era un fatto artigianale tra famiglie, veniva messa fuori a Natale, durante il periodo di Natale, quasi per dire, cioè per ricordare che era quel periodo, e diventava uno scambio prezioso tra varie famiglie. Quindi secondo me è un fatto veramente importante di cultura materiale di quel territorio. Bene, rimaniamo sempre in Franciacorta, perché qui abbiamo sposato Franciacorta con Costiera Amalfitana, con burro e alici. C'è la Costiera Amalfitana, oggi offre tra l'altro una ristorazione tra le migliori d'Italia, c'ha una decina di ristoranti che veramente sono di grandissimo livello. La Costiera ha fatto dei passi in avanti incredibili. Quando si dice dove c'è turismo non si mangia bene, e lì diciamo la Costiera lo ha smentito, ed oggi è un'attrazione gastronomica importante. Continuo il mio viaggio ed ora andiamo ad Adro, sempre diciamo in terra di Franciacorta. Il locale si chiama Dispensa Pani e Vini. Bene, questo locale diciamo che è stato creato da Vittorio Fusari, che oggi quasi sempre è al Pont de Fer di Milano, però la sua impronta, il suo imprinting in questo locale rimane. Diciamo che è molto bello, perché si può mangiare nel ristorante con tovaglia e grandi bicchieri, ma anche in tavoli di legno di fronte alla cucina, e quindi diciamo c'è grande possibilità di scelta per l'uno o per l'altro, e qui si possono mangiare anche dei piatti semplici, cominciare dal manzo all'olio, che è una specialità di Rovato. Rovato, appunto, in Franciacorta è conosciuto proprio per il grande commercio di carni, e questo manzo all'olio è uno dei piatti caratteristici di quel territorio. Si mangia anche del pesce di lago, e quindi si può mangiare la terrina di tinca o il baccalà con colatura di alici. Mi sono dimenticato di dire che a burro e alici si mangiano dei grandi spaghetti con la colatura. E poi ancora a Corte Franca, un ultimo indirizzo. Ultimo, abbiamo un ristorante che si chiama Due Colombe, e lo chef Stefano Cerveni ora è arrivato a Milano e gestisce la terrazza della Triennale, però questo locale e Due Colombe è diciamo il locale suo storico, dove c'è una cucina raffinata, tra cui è noto la zuppa di Babette, che è un pancotto con quaglia croccante, e quindi una cucina molto, molto particolare. Come hai visto, in terra di Franciacorta ci sono grandi possibilità di scelta. Ovviamente grandi possibilità di scelta, ma una è obbligatoria, è lo spumante di OCG, è il Franciacorta di OCG, perché se lo chiamo spumante diciamo che i produttori immediatamente mi cacciano sicuramente, ma è vero, è l'unica terra spumantistica in Italia che può vantarsi di chiamare il proprio vino con il nome del territorio. Allora, quindi Franciacorta di OCG. Davide, brindiamo idealmente, la prossima volta ci ritroviamo con un'altra tendenza, un altro itinerario. Buon sabato a Davide Paolini, al prossimo Sabato del Villaggio. Buon sabato a tutti. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Il Sabato del Villaggio. E al Sabato del Villaggio è il momento di parlare di tecnologie. Perché Hotel California? Perché ho scoperto oggi, lo so che magari la sanno già tutti, ma io ho scoperto oggi che esiste la sindrome Hotel California, cioè che tu puoi lasciare la stanza, puoi fare check out, ma non te ne puoi andare mai. Cioè, anche in fatto di sicurezza, tu puoi cambiare la policy, puoi cambiare i sistemi, ma non te ne puoi andare mai, non se ne può uscire. Sindrome Hotel California. E io ho un po' una sindrome Hotel California nei confronti di Enrico Pagliarini, perché lui se ne può andare, può essere in collegamento da non so dove, ma non posso mai uscirne. Chissà dov'è, ma sento che c'è. Ciao Enrico. Chi lo sa, buongiorno a tutti, ciao. Non lo so dove sei, sei nell'aere. Non la sapevo questa dell'Hotel California. La sindrome dell'Hotel California, You can check out, but you can never leave, cioè non te ne puoi andare mai, eh. Sì, devo dire che comunque sia, la California ha a che fare con la nostra sicurezza, direi che oramai se guardiamo almeno agli smartphone, che sono uno dei mondi di cui discutiamo spesso, la sicurezza di questi aggeggi dipende molto da quello che succede, da quello che decidono in California. Cioè, è come se l'armadietto con le chiavi nostre fosse là. Un po' sì, perché comunque se consideriamo che il 97% dei prodotti, dei terminali, quindi degli smartphone che ci sono nel mondo, poi questa percentuale cambia da paese a paese, però se guardiamo a tutto il mondo, 97% sono o iOS, 18% circa, yes. 17-18% e 79-80% Android. In Italia c'è una percentuale un po' più alta di Windows Phone, ma insomma mica tanto, non è che siamo tanto più in là di 3-4%. E quindi tutte queste cose vengono progettate e pensate in California, e la sicurezza di questi strumenti viene progettata in California. Dopodiché c'è tutto quello che noi facciamo, quindi il nostro comportamento, perché è la stessa cosa che vale per il mondo fisico. Se noi abbiamo la porta blindata ma non la chiudiamo, ecco, oppure lasciamo le chiavi in giro, oppure o come me, che io per ben due volte ho dormito con la porta blindata chiusa, tutti gli allarmi attivati e le chiavi fuori della toppa, ecco. Certo, un genio. Oppure se noi dalla, questo è più per le signore, diciamo, dalla parrucchiera, mm-hmm, raccontiamo che la settimana tal dei tali di aprile la passeremo all'estero in vacanza, magari questa voce si sparge e arriva anche all'orecchio del ladro, cosa che succede. Certo, diciamo, mettiamo sui social che siamo in settimana bianca, sì, e nel frattempo c'entrano in casa. Allora, certo, sapete che negli Stati Uniti ci sono delle assicurazioni che hanno cominciato ad analizzare e anche a valutare se i clienti hanno i social network e quanto li utilizzano, perché succede questo, che uno spiffera in giro quello che fa, e i ladri vanno a controllare, o comunque si fanno dire magari da uno che è riuscito a essere amico sui social network, e puntualmente il ladro arriva quando uno non è in casa. Quindi molte delle cose che valgono per il mondo fisico valgono anche per il mondo digitale degli smartphone. Però volevo dare così alcuni consigli partendo anche... Dici che possiamo fare qualcosa, e cosa sì, possiamo certo, fare? Sì, qualcosa si può fare, però devo dire che dopo tanti tanti anni io continuo a ricevere email o persone che mi parlano e che mi ridicono sempre, mi fanno sempre le stesse domande dopo anni. Allora, sapete che c'è, tutta questa settimana ne abbiamo parlato, se ne è letto tantissimo, il governo, l'FBI sta chiedendo un aiuto all'Apple per entrare in uno smartphone, in un iPhone, ma senza essere terroristi, senza avere il timore di essere in una situazione di questo genere, però sicuramente il PIN e la password sono due elementi importanti della nostra vita digitale, e direi della nostra vita in generale, e ancora oggi non poniamo sufficientemente attenzione ai PIN e alle password. Allora, intanto il PIN bisogna metterlo, perché ci sono ancora molte persone che non lo mettono. Ecco. Dovrebbe essere un po' complicato, quindi non 1111. O la data di nascita, o la data, del matrimonio, o la data di nascita, esatto, dei figli, che sono le prime. Esatto. Poi, a proposito di comportamenti, quando siamo in giro, fate caso a quante volte vedete una persona, o su un mezzo pubblico, anche sul posto di lavoro, che mette il PIN e lo si vede benissimo. Quindi, se uno è abituato a mettere il PIN con disinvoltura in mezzo alla gente, cioè, allora, speriamo che tra i colleghi di lavoro o in famiglia, o comunque tra amici, nessuno poi vada a utilizzare quel PIN per entrare nel telefono. Però se uno si abitua a non porre attenzione anche mentre inserisce il PIN, è un po' come quando siamo davanti al bancomat, cerchiamo di guardarci attorno, che certo, qualcuno non ci sia attorno. Posso chiederti, io ad esempio uso l'impronta digitale, è una buona idea? Allora, sicuramente sì, è una buona soluzione. L'unico, se vogliamo, l'unico dubbio, anch'io utilizzo sia per iOS che per Android, sì, tutti i terminali utilizzo l'impronta digitale, che è molto comoda. L'unico problema è che se per caso ti dimentichi il telefono, o devi per qualche ragione prestare un telefono a un familiare, il telefono si blocca, devi dargli il PIN, e se insomma, comunque può, è sicuramente una soluzione molto molto molto comoda. Poi questo dipende anche da... Devo dire che tendenzialmente su iOS funziona molto bene, su Android dipende dai terminali, non tutti i terminali rispondono... Devo dire che io uso quotidianamente uno smartphone Android, mentre per il tablet su iOS, a me funziona, in radio abbiamo tutti lo stesso modello, alcuni dicono a me funziona, avrò il anche polpastrello fotogenico, sì. Cosogenico, non lo so. Sì, esatto, improntogenico. Password, le password andrebbero... Allora, la teoria dice che le password andrebbero cambiate sempre, cioè sempre, certo, vuol dire ogni qualche mese, però diciamo ogni tanto, almeno per i servizi più sensibili, quelli dove abbiamo molte informazioni, ad esempio l'email, la password, oltre che ad essere anche in questo caso un po' complicata, e magari una password con qualche carattere, che ne so, carattere speciale, come che ne so, il punto interrogativo, il cancelletto in mezzo. Uno potrebbe anche scrivere una password facile come casa, però magari in mezzo a casa fa cancelletto 22xza. Potrebbe essere, insomma, inventatevi qualcosa di complicato. Alcuni sostituiscono le lettere con i numeri, la 5 con l'S, la I con l'1. Sì, è una soluzione. Però anche qui, se uno va a vedere le statistiche, ci sono alcune società di sicurezza che fanno le statistiche delle password che poi intercettano su terminali o usati, o quando fanno analisi di sicurezza. Prima in classifica la password 123456. Ah, difficilissima. Bisogna essere un po'... Che è anche allora, quella che si usa spesso quando si prova a entrare in un wifi, magari in un esercizio, sì, lo confesso, esatto. Spesso, sì. A proposito di password, e a proposito di servizi online, un buon consiglio che molti gestori danno, ma che non so, non esistono statistiche almeno pubbliche su questo, è laddove è possibile utilizzare una soluzione con doppia autenticazione. Mi spiego. Allora, se noi abbiamo già una buona password, siamo abbastanza sicuri che se difficilmente venga intercettata, venga copiata e indovinata da qualcuno che vuole entrare. Però se abbiamo la doppia autenticazione, il che vuol dire che noi entriamo con la password e poi ci viene inviato un SMS con un codice e quel codice lo dobbiamo inserire nel sistema, ad esempio, di posta elettronica o su un social network. Sì. Questo è molto più complicato, perché laddove succedesse che uno ci becca la password, gli arriva l'SMS a noi e non al ladro che vuole entrare, e quindi ci accorgiamo che c'è un problema e comunque lui non riesce ad entrare. È sicuramente una scocciatura, non c'è dubbio che è un po' come nella realtà, no? La porta e la chiave sono una scocciatura. Se uno avesse una tenda, fa molto prima vero, a entrare e uscire di casa. Hai ragione, Enrico. È la stessa cosa. Quindi bisogna avere un po' di attenzione e perdere quei pochi secondi, certo, ogni giorno, per ricordarsi le password, cambiare le password, avere attenzione a quello che noi facciamo online. Enrico, facciamo una brevissima pausa. Momento del traffico, poi ci ritroviamo ancora insieme con qualche consiglio tra pochissimo. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Il Sabato del Villaggio. It's a mystery to me. The game commences for the usual fee. Plus expenses, confidential information. Diary. This is my investigation. It's not a public inquiry. This is my investigation. E adesso le investigations passano spesso per il contenuto dei cellulari, ce lo ha detto Enrico Pagliarini, è notizia di questi giorni, qualche cellulare che gli inquirenti in America vorrebbero aprire, ma si può, non si può, insomma ne abbiamo parlato tanto, ne ha parlato tanto Enrico in questi giorni, stiamo parlando appunto di sicurezza dall'altro punto di vista, dal punto di vista degli utenti che vorrebbero garantirsi un po' di sicurezza dei propri dati, perché insomma ce lo siamo detti scambiandoci qualche email prima del collegamento con Enrico, non abbiamo niente da nascondere a livello penale, ma la nostra privacy sì. Enrico, eh sì, è un po' come, torno a fare un esempio reale, tutti chiudono la porta di casa, magari hanno le tende alle finestre, alla sera quando ci sono le luci magari abbassiamo la tapparella, insomma la privacy è un'esigenza umana, e visto che noi nei nostri smartphone, poi c'è anche un film in questi giorni, probabilmente ne hai già parlato, ne parlerai, di gente che dice ma nessuno ha segreti e allora scambiamoci, sì, sì, abbiamo gli smartphone. La scorsa settimana abbiamo avuto Anna Foglietta, Perfetti Sconosciuti, certo. Altri consigli? Sì, un'ultima cosa. Allora, potremmo continuare perché c'è una lunga lista di consigli, magari continuiamo nelle prossime settimane, certo. Se gli ascoltatori ci vogliono scrivere, ci fanno domande o anche delle proposte, delle considerazioni o dei consigli ulteriori. Allora, a proposito delle password, non scrivere mai le password su un foglio di carta che magari uno mette nel portafogli, no? E sarebbe meglio nemmeno salvarle su un file online. Allora, io ho una soluzione personale, poi non so, ci possono essere mille soluzioni, non è certo. Che io ho la soluzione in tasca. Ce l'ho nel portachiavi, allora una chiavetta USB con un po' di dati, che quindi non è online, ok? Certo. Chiavetta USB, ho un file protetto da una password particolarmente complicata, in cui ho una bella lista di password, perché è umanamente impossibile ricordarsi tutte le password anche di servizi, certo, che magari utilizzi, che ne so, il portale dell'automobilista dove vedete i punti che avete sulla patente. Quante volte lo andate a vedere? No? Io devo dire che ogni volta richiedo la password perché mi sono dimenticato. No, io ci sono andato recentemente perché mi hanno dato due punti in omaggio, quindi penso che... Ah, pensavo che te li avessero tolti per qualche... No, sei uno ligio. Posso vendere punti della patente. Anch'io sono abbastanza bravo. Quindi, ad esempio, insomma, questa potrebbe essere una soluzione. Sui gestori della password ne parliamo la prossima settimana, perché ci sono due o tre considerazioni da fare. Ci sono questi software che gestiscono le password. Visto che abbiamo un minuto, sì, volevo, in onore degli sciatori che sono appassionati, che oggi festeggiano le vittorie degli azzurri, perché insomma sapete che oggi... È stata una giornata significativa. Sì, la nostra Nadia Fanchini e Paris hanno vinto nelle loro gare, e quindi per gli sciatori una bella soluzione per le mappe, per sapere dove andare e proprio per seguire anche i percorsi. Allora, la Navionix, che è un'azienda italiana specializzata nelle mappe nautiche, ha fatto anche delle ottime mappe non solo per l'Italia ma per altri paesi del mondo, Europa, Stati Uniti, per gli sciatori, mappe per andare a sciare, quindi delle piste da sci, ecco. Straordinario. Molto Enrico, interessante, molto dopo interessante. I tuoi consigli, do due consigli io. Intanto il tuo 2024, il podcast di 2024 sul sito radio24.it, e poi, visto che tu sei un grande, grandissimo appassionato di cinema, non so se questo fine settimana hai in progetto di andare al cinema, non lo so. Allora, no, perché io, a me piace andare nei posti centrali e di solito tento di andarci durante la settimana quando sono sicuro, ecco, che non vabbè, c'è... Però, così informiamoci insieme, rimani in linea così ascolti tutto quello che c'è in sala questo fine settimana. È il momento di andare insieme al cinema. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Onda su onda. Lei una corda vocale bloccata. Mi servono i soldi, sto concerto lo devo fare. Io devo trovare uno che lo fa a posto mio. E se non posso cantare, la colpa è tua. Io sono la responsabile del concerto. E il signor Cristofori dov'è? Dov'è? C'è Cristofori? Sono io. Per me ci hanno creduto. Andiamo a sprigionare il tuo sex appeal da troppo tempo sopito. Dopo il concerto dobbiamo parlare. Signore e signori, c'è Cristofori e gli ammodernati del babbo. E questo era un brevissimo estratto da Onda su Onda, una delle commedie che escono in questo periodo felicissimo per le commedie, questa in particolare è da questo fine settimana nei cinema, quindi ci chiediamo come sempre se vale la pena andarlo a vedere, e lo chiediamo come sempre al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta. Sì, secondo me vale assolutamente la pena di andarlo a vedere, perché contrariamente alle commedie di cassetta, non arriviamo a Zalone, ma pensiamo anche a Verdone, tanto per dire, Perfetti Sconosciuti, che attualmente in sala, è un film, questo di Rocco Papaleo, Onda su Onda, con Rocco Papaleo e Alessandro Gassman, un film che è una commedia blues, una commedia che gioca sui toni della malinconia, del levare piuttosto che dell'aggiungere, ed è quindi una commedia molto interessante, magari non perfettamente compiuta, ma con tanti spunti interessanti, con tante battute ben scritte. È la storia di un cantante, ormai piuttosto agé, potremmo dire, appunto, Rocco Papaleo, che parte per l'Uruguay in nave, dove in Uruguay dovrebbe fare un concerto che riscatterà l'intera sua carriera. Però sulla nave fa delle amicizie, che sono quelle di un cuoco che non vuole mai scendere a terra come Alessandro Gassman, e di un comandante della nave che invece ha il mal di mare, quindi per contro non vede l'ora di scendere a terra. Insomma, questa sgangherata banda arriverà a Montevideo e ne combinerà di ogni, soprattutto scoprirà finalmente se stessa, cioè scoprirà ogni protagonista chi è davvero dentro. Ed è una commedia molto gradevole, nobilitata anche dalla presenza di questa attrice russa cipriota argentina, che fa un po' da catalizzatore di tutta l'azione una volta che l'Uruguay è finalmente la terra di questo film. Rocco Papaleo tra l'altro sarà ospite alla Rosa Purpurea proprio per ascoltare quello che ha da dirci su questo film. E questo per gli amanti delle commedie. Invece, per chi volesse andare al cinema coi bimbi, c'è qualcosa? Beh, c'è sicuramente questa settimana il film Disney veramente tipicamente family, che è Zootropolis. È una storia di animazione ambientata in una città, appunto Zootropolis, completamente abitata da animali che vivono in perfetta armonia in questa città, e una giovane coniglietta, che non c'entra niente con Playboy in questo caso, che a tutti i costi vuole fare la poliziotta, parte appunto per Zootropolis per coronare il suo sogno. Un film che si presta, come ormai Disney ci ha abituato, a molte letture, anche se non arriva ai livelli psicologici di Inside Out, per esempio, ma è un film che rende o comunque onore e omaggio a una simbiosi, quella fra Disney e Pixar, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante e forse sta finalmente diventando e trovando un linguaggio comune. Quindi un film assolutamente da vedere. Ci stiamo avvicinando agli Oscar, e quindi c'è qualcosa che possiamo andare a vedere così per fare un ripasso, anzi una preparazione per le statuette che verranno consegnate tra una settimana? Qualcosa è uscito di nuovo? Sì, Marta, arrivano due film, diciamo, in zona Oscar. Uno è The Danish Girl, la storia del primo uomo che negli anni 20 in Danimarca fu operato per cambiare sesso. È una storia molto toccante, con toni un po' troppo melensi, sicuramente una bella interpretazione di Eddie Redmayne, che insomma si sta specializzando in questi ruoli di grande sofferenza, no? Sono quei ruoli, insomma, che agli attori piacciono molto. L'altro invece è Il caso Spotlight, sfortunata traduzione italiana del film del titolo originale Spotlight, semplicemente. La squadra Spotlight era la squadra di investigatori, giornalisti investigatori, che all'inizio degli anni 2000 mise gli occhi sullo scandalo dei pedofili, degli abusi nella Chiesa Cattolica, che poi sfociò e divenne uno scandalo internazionale. Ecco, questo è un film che magari non ha le punte registiche, soprattutto dei grandi capostipiti del cinema d'impero civile americano, i Tre giorni del Condor, Tutti i giorni del Presidente, ma anche cose un po' più recenti, ma che ha un rigore davvero importante nei ruoli, nei personaggi e nella recitazione. E questo è davvero un film che piacerà a chi ha amato i grandi film dove l'America ha raccontato se stessa senza veli, per cercare di raccontare però qual è stata la sua grande forza, la sua grande democrazia. Grazie Franco, l'appuntamento con te quindi è dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Ciao Franco. Saluto a tutti e ci sentiamo più tardi. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con la seconda ora del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio. Staremo insieme in diretta fino alle 18. Nella terza ora il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Tutti i nostri contatti, intanto c'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV, il numero per i vostri SMS o WhatsApp 349-238-6666. Voglio salutare l'Omi 56 che ha mandato un SMS mentre parlavamo con Enrico Pagliarini di sicurezza, di smartphone. Lei ci scrive: vi sto ascoltando molto attentamente, siete bravissimi, ma come sono felice di non avere smartphone e quant'altro. Alla vecchia maniera si va ancora alla grande, non potrei vivere tra PIN e password. Effettivamente l'argomento era molto complesso, bravissimo Enrico Pagliarini, però tante cose da tenere sott'occhio. Cosa succederà però nella seconda ora del sabato del villaggio? Inevitabile, nello spazio dei libri con Alessandra Tedesco, un ricordo di Umberto Eco, ma anche di Harper Lee. Come sempre anche i consumi con Maria Luisa Pezzali, la musica. Con noi ci sarà un grande protagonista del Festival di Sanremo, lo dico soprattutto agli appassionati dei social che già stanno facendo impazzire il mio account di Twitter e anche il mio account di Instagram. Lui è assolutamente numero uno, sarà con noi Valerio Scanu. Ma prima parliamo delle serie TV del momento. Pochi giorni fa abbiamo visto un primo episodio, già tantissimi sono i fan. Devo dire che io Ho visto il primo episodio, non l'ho ancora visto tutto perché era molto complesso, l'ho visto quasi tutto, però ho detto no, me lo guardo con calma questo fine settimana, quindi domani sarò lì tranquilla sul mio divano col plaid a guardare il primo episodio di Vinyl, che viene da HBO, che ha un produttore, ideatore molto particolare, che è Mick Jagger, che parla di anni interessanti per quanto riguarda la musica, che è una grande serie TV. E allora ne parliamo con un amico del Sabato del Villaggio. Non vedevo l'ora di riuscire a intercettarlo, a chiamarlo, di parlare con lui di serie TV. Lui scrive su un sacco di giornali, XL, Wired, GQ, Rolling Stone, e adesso anche sulla Stampa. È appunto un amico del Sabato del Villaggio e anche mio, Gianmaria Tammaro. Ciao Gianmaria. Ciao Marta, buonasera a tutti. Buonasera. Allora ti chiedo subito se questo Vinyl ti è piaciuto, perché è tosto, c'è una colonna sonora pazzesca ed è bello intenso, perlomeno a me è parso. Tu che ne dici? Guarda, io ho avuto la fortuna di vederlo in anteprima, parlo di molto molto tempo prima che uscisse, e soffrivo perché non ne potevo parlare. Ah, ce l'avevi lì come... Ah, sì, è vero, quando gli altri non possono capire. No, ma a parte quello, poi adesso sotto embargo, quindi non avrei potuto dire molto, però la serie è in sé un piccolo capolavoro, ma non tanto per Jäger, che sicuramente è il produttore, uno dei produttori esecutivi, e ci ha messo del suo. Ci sono tantissime citazioni delle canzoni dei Rolling Stone, a stare un po' attenti si sentono. Vero. E si notano. Ma soprattutto per Scorsese, che è il regista del pilot e anche lui produttore esecutivo, e per Terence Winter, che è il vero, diciamo così, creatore e scrittore di tutti gli episodi. Anni 70, nascita di un certo tipo di rock and roll, trasgressione, do l'appuntamento in Italia che è il lunedì sera alle 21.10 su Sky Atlantic HD, storie toste, diciamo non per tutti i pubblici, bisogna essere adulti e maturi per guardarlo. Ma sì, anche se diciamo la formula solita, trita riterita del sesso, droga e rock and roll qui è cambiata, diciamo, nella composizione, però ci sono tutti e tre gli elementi e si va in un diciamo così, in un racconto che distrugge i personaggi. Si conoscono nella prima puntata come personaggi solidi con una loro realtà, che è quella di una casa discografica, e poi piano piano, già dalla prima puntata, vengono distrutti e costretti a tornare, diciamo così, alle radici dei personaggi. Però è sicuramente una di quelle serie che si farà amare soprattutto per la sua amarezza e per la sua realtà più che realismo. Allora, non è l'unica serie che è iniziata o ripartita in questo periodo. L'altra sera io avevo appunto la timeline piena anche di un Walking Dead che insomma è ripreso, mi pare, in maniera significativa. Sì, sicuramente la nuova puntata di Walking Dead, che è andata in onda martedì scorso, ha fatto contenti tantissimi fan, perché sicuramente è molto più fedele al fumetto di Kirkman, e forse in questo ha trovato tutta la sua forza. E c'erano tantissimi colpi di scena che non sto a dire, perché magari se qualcuno l'ha visto non voglio fare spoiler. Appunto, non vogliamo fare spoiler, però i fan diciamo che se la guardano in... Sono stati molto contenti, c'è stato un... Sì, anch'io ho visto appunto la mia timeline, io non lo stavo seguendo, ma ho visto la timeline esplodere di gioia su questo Walking Dead. Sì, perché la prima... qui parliamo della sesta stagione, all'inizio ci sono stati i primi quattro episodi che avevano entusiasmato e fatti contenti i fan, poi gli altri quattro... erano diventati un po', diciamo così, moscetti, ridondanti. E poi c'è stato il ritorno con la nona puntata, che ha fatto contenti praticamente tutti. Infatti ho avuto quella sensazione lì, come se fosse appunto un ritorno ai fasti che si erano un po' persi. Io approfitto della tua presenza per chiederti qualche consiglio. C'è qualcosa, visto che gli appassionati di serie TV al Sabato del Villaggio sono sempre tanti, qualche consiglio di Gianmaria Tammaro? Gianmaria, cosa stai seguendo con passione? Guarda, ieri, appena ne avrò la possibilità, ne scriverò anche sulla Stampa, è uscita questa bellissima serie su Netflix, tutta, sono 10 episodi, si chiama Love, e tra i creatori vanta il nome di Judd Apatow, che è uno dei geni della commedia americana e il regista di 40 anni vergine. E questa storia d'amore dove i luoghi comuni vengono totalmente invertiti. È la donna, diciamo così, il sesso forte, mentre l'uomo è molto più timido, molto più restio a fare il primo passo, ed è questa storia d'amore completamente lontana da tutto quello che, insomma, solitamente si racconta in una comedy romantica. E come ti dicevo, è disponibile su Netflix, sono 10 episodi, si vede come acqua fresca, cioè proprio un continuo velocissimo, perché gli episodi non sono neanche tanto lunghi, c'è solo il pilot che sono 40 minuti, poi tutti gli altri sono una ventina, 25 minuti, massimo 30, ed è proprio appassionante. Poi si finisce per avere una visione del mondo molto meno incantata, diciamo così, e dell'amore lontano dal vero amore, lontano da quella storia che ci diciamo tutti del colpo di fulmine. Questo già so che mi appassionerà, quindi mi devo trovare un pomeriggio, sera, notte per farmi il binge watching, la maratona di Love. Sì, bene. Poi, dimmi. Posso, sempre su, sì, Netflix, è tornata la seconda stagione di Better Call Saul in contemporanea con gli Stati Uniti, che è un must non solo per quelli che hanno adorato Breaking Bad, perché viene dagli stessi creatori di Breaking Bad, è una specie di spin-off, diciamo così, sul personaggio di Saul Goodman, che è uno dei personaggi più iconici di Breaking Bad, l'avvocato di Walter White, e qui vediamo un po' le sue origini, e c'è appunto, dicevo, il ritorno di questa serie che uscirà, contrariamente al solito, di Netflix, una volta a settimana, perché in contemporanea con gli Stati Uniti, e insomma non vogliono troncare le gambe al canale che la manda in onda in America. Ecco, molto bello, questo lo diciamo anche a Filippo Aureggi in regia, che adesso invece si sta ancora recuperando Breaking Bad, me l'ha detto poco tempo fa. Quindi poi Better Call Saul, 2 stagioni, ma la seconda una puntata alla volta, niente binge watching. Grazie a Gianmaria Tammaro per essere stato con noi. Grazie. Il tuo account di Twitter è un po' complesso, allora facciamo che io lo twitto invece di dirlo in radio, così chi ti vuole seguire, perché è Gian_91, lo twitto così lo capite subito. Grazie a Gianmaria per essere stato grazie con noi, a presto, grazie per grazie i tuoi consigli. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, traffico e poi ancora insieme col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E come sempre al Sabato del Villaggio a quest'ora è il momento di parlare di libri, beh insomma è inevitabile l'argomento di questa settimana. Ricordo del nome della rosa, il libro, il film, non possono non arrivare subito alla mente se si parla di Umberto Eco. Umberto Eco che è scomparso. Poche ore fa la notizia è arrivata nella notte, è esplosa nella mattinata perché tutti hanno cominciato a ricordare Umberto Eco. Non possiamo non farlo anche noi nel Sabato del Villaggio con la nostra Alessandra Tedesco. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Marta. Beh, insomma, è stata una notizia che ha toccato tutti. Tu cosa hai provato e pensato appena l'hai saputo? Beh, guarda, io ti dico, Umberto Eco l'ho letta ieri sera sui social, la notizia, quindi stanotte praticamente, e sono rimasta stupita un po' di come effettivamente tutto il mondo culturale, voglio dire anche quello non solo italiano, si sia mobilitato in questo senso, cioè ne stanno parlando veramente tutti, perché Umberto Eco era un simbolo della cultura italiana, lo ricordiamo, era un semiologo, un linguista, un filosofo, ma soprattutto era riuscito a rendere la cultura pop popolare. Spesso si pensa che Umberto Eco fosse una persona snob, no? Distaccata, perché magari spesso non concedeva interviste. In realtà è stato il creatore del primo bestseller italiano, ossia appunto Il nome della rosa, a cui tu facevi riferimento prima, che risale al 1980. E pensa che Il nome della rosa è il libro italiano più conosciuto al mondo. È stato tradotto in decine e decine di lingue, in Italia ha venduto fra, qualcuno dice 12 milioni, alcuni 14 milioni di copie, ristampe, e proprio l'anno scorso, in occasione del suo compleanno, aveva voluto fare come dire una versione rivista e corretta del nome della rosa a distanza di un bel po' di anni, cosa che suscitò insomma, anzi no scusate, in occasione dei suoi 80 anni, perché l'anno scorso pubblicò un altro libro, quindi in occasione dei suoi 80 anni pubblicò una versione riveduta e corretta del nome della rosa. Alessandra, io vorrei insieme a te magari dare qualche strumento per capire maggiormente Umberto Eco a tutti coloro loro che l'avessero conosciuto poco, perché non dobbiamo mai dare niente per scontato, anche perché sentiremo qualcuno che di più autorevole che dice, si dice che in tanti dicono di conoscerlo, in realtà non l'hanno davvero letto. Ma al di là di questo, tu hai avuto occasione di parlare con lui, di incontrarlo, ma anche di parlare con chi gli è stato molto molto vicino, Alessandra. Sì, devo dire, ricordo un piccolo aneddoto al Salone del Libro di Torino di alcuni anni fa, durante il quale si parlava, il tema centrale era l'ebook, insomma, c'è la morte del libro di carta o non c'è la morte del libro di carta. Allora ci eravamo così incontrati casualmente e avevo detto: allora, professore, insomma, questo libro di carta, questo ebook. Lui mi guarda e mi dice: i cosa? Cioè, della serie, che non considerava neanche la possibilità dell'ebook. Infatti poi è rimasta famosa una delle sue come dire, dei suoi scritti, delle sue lezio: non fate il funerale ai libri di carta. Quindi era scettico nei confronti dell'ebook, ma non completamente contrario, così come nel caso dei social, che è stata un po' l'ultima polemica che aveva sollevato, no? Perché aveva detto che i social possono essere sicuramente democratici, nel senso che fanno arrivare le informazioni a tutti, ma danno diritto di parole anche a schiere di imbecilli. Questo era Umberto Eco, insomma, era fra il pop e lo snob, mettiamolo così. Sicuramente una persona che l'ha conosciuto benissimo è Mario Andreose, che per anni è stato direttore editoriale della Bompiani, per la quale Eco pubblicava. Mario Andreose, oltre a essere amico fraterno di Umberto Eco, era il suo editor, perché anche i libri di Umberto Eco venivano corretti, perché d'altronde di qualcuno doveva fidarsi per dare una lettura ai suoi scritti. C'era fra loro un rapporto veramente meraviglioso, di grande complicità. E in occasione degli 80 anni appunto di Umberto Eco avevo sentito Mario Andreose e proprio gli avevo chiesto un suo ritratto personalissimo di Umberto Eco. Sentiamolo. Sicuramente è un genio in quanto a profondità di intelligenza e di sapere, e soprattutto un genio perché non è un uomo di cultura arroccato nel suo sapere, nella sua hubris che spesso caratterizza i grandi intellettuali, perché è anche delle qualità, una fra tutte l'ironia, la capacità di divertirsi, di divertire gli altri, perché tra le altre cose è un compagno irresistibile di bar, di osteria, di tavola, quindi ha moltissime qualità che appunto ne fanno un caso unico nel panorama dell'intelligenza mondiale. Ecco, lei che lo conosce così bene, com'è nella vita privata, proprio dal punto di vista anche caratteriale? Ma nella vita privata, da un punto di vista caratteriale, e anche qui ha delle sfaccettature diverse e a volte anche abbastanza come dire, sorprendenti, perché non smette mai l'abito mentale del professore, inflessibile nel giudizio e nell'essere esigenze circa la correttezza dell'espressione, del pensiero. Essere con lui si è sempre un po' sotto esami, ma come dicevo prima è una cosa che è intrisa di gusto, di stare insieme per divertirsi. Non ha moltissimi amici, però quelli, in quanto è impegnato come è sempre stato, com'è, fa anche una vita familiare molto molto intensa, da quando è diventato nonno è molto orgoglioso, molto vicino ai suoi due nipotini. Alessandra, raccontavi del nome della rosa e della sua decisione per i suoi 80 anni, peraltro, di ripubblicarlo, di rinverdirlo. Sì, di rinverdirlo. Tra l'altro, guarda, a proposito del nome della rosa, ti posso dire che Umberto Eco aveva una sana abitudine, cioè quella di fornire, fin dal nome della rosa, ai traduttori stranieri un pacchetto di informazioni sulle quali potevano basarsi per poi tradurre al meglio i suoi romanzi. E naturalmente nel caso del nome della rosa era fondamentale, perché si tratta appunto di un giallo storico ambientato del Medioevo, quindi lui aveva fatto delle ricerche particolari. Lui decise anche anche alla luce di tutte le traduzioni che erano state fatte del suo romanzo, poi di rimetterci un po' mano, e Mario Andreose ci parlò in quell'occasione anche di questo. È stato sorpreso da questo successo, e ovviamente adesso l'orgoglio penso che sia implicito, anche se non manifestato expressis verbis. E tra l'altro lui, come altri autori, talvolta hanno sentito la stessa esigenza di risciacquare un momentino i panni nel fiume di una corrente nuova che gli ha attraversato il cervello, so. Però c'è anche una cosa, come lei sa, molti mi hanno detto sì, è un libro che hanno tutti comprato ma pochi letto. Ecco, questo mi sembra il successo, come lei sa, suscita l'invidia, e a questi risponderei: può darsi che abbiate ragione, che magari non tutti l'abbiano portato a compimento la lettura, che altri l'abbiano solo odorato, poi ho detto non fa il caso mio. Però come si spiegherebbe se questo libro ogni anno in tutti i paesi in cui è stato pubblicato, e siamo vicini alle 50 edizioni in varie lingue, viene continuamente ristampato? Ecco, questa è una riflessione che si può fare quando appunto si sente dire che è un libro talmente difficile che sicuramente si compra, si deve avere uno scaffale, ma poi non tutti lo leggono. Alessandra, i social ne hanno parlato tanto, ovviamente torneremo a parlarla anche in RadioTube, però immagino che tu abbia dato un occhio anche alle reazioni. Sì, guarda, sono veramente ore e ore. Diciamo che la frase più postata, la frase celebre di Umberto Eco più postata in queste ore è la seguente: chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, chi legge avrà vissuto 5.000 anni, la letteratura è immortalità all'indietro. Questa è una delle sue perle di saggezza che in questi momenti viene più ritwittata assolutamente da tutti i social. Alessandra, abbiamo ancora un paio di minuti per stare insieme, io vorrei dedicarli invece a un altro grande personaggio della letteratura che è scomparso ieri. Sono stati due giorni un po' tumultuosi, ecco. Sì, perché è scomparsa proprio ieri la scrittrice americana Harper Lee, a 89 anni, che è stata famosa per un solo libro che ha scritto, sostanzialmente, Il buio oltre la siepe. Vinse il Pulitzer, uscì nel 60 negli Stati Uniti, nel 62 in Italia pubblicato da Feltrinelli. Ci furono insomma anche polemiche quando uscì, perché raccontava sostanzialmente la storia di un avvocato bianco che difendeva un nero. Si è riparlato di Harper Lee l'anno scorso perché è uscito il sequel di Il buio oltre la siepe, cioè gli stessi personaggi, Scout che torna da suo padre, Atticus, appunto questo avvocato bianco che aveva difeso il nero 20 anni dopo. E però insomma non c'è più questa apertura nei confronti dell'integrazione razziale. E a questo proposito ho sentito Inge Feltrinelli, che è appunto l'editore italiano sia del Buio oltre la siepe che di Va dove metti una sentinella. Sentiamola. C'era uno scandalo in America, uno scandalo, meno scandalo in Europa, perché il problema del nero bianco non c'era in Europa, no? Problema del conflitto che ancora oggi, dopo 54 anni, non è finito. Come mai, secondo lei, Harper Lee, dopo Il buio oltre la siepe, non scrisse più nulla? Ma è un mistero. Io non ho capito bene se lui ha scritto anche questo libro prima di Il buio oltre la siepe o dopo. È un mistero. Ecco, quindi non è ancora chiaro se Va, metti una sentinella sia stato scritto prima o dopo. No. Neanche voi editori lo sapete. No, mistero. E grazie ad Alessandra Tedesco per questa pagina inevitabilmente molto particolare del Sabato del Villaggio. Alessandra, grazie, appuntamento al prossimo sabato. Ciao Marta, ciao a tutti. Il Sabato del Villaggio. E torniamo col Sabato del Villaggio con una notizia appena battuta dalle agenzie. L'uscita del nuovo libro di Umberto Eco, Papé Satana Leppe, che era prevista in maggio, è stata anticipata a sabato 27 febbraio. A sabato prossimo lo annuncia l'editore Eugenio Lio, che con Elisabetta Sgarbi, Mario Andreose, che abbiamo appena sentito, e Anna Maria Lorusso si sono dimessi da Bompiani per la nuova casa editrice La Nave di Teseo. Il libro quindi non in maggio, ma sabato prossimo, Papé Satana Leppe di Umberto Eco. Adesso a Radio 24 è il momento dei consumi. Mi manca un chilo di pace integrale e due etti di comprensione. È un cartone d'amore a lunga conservazione. Non rimane che fare la spesa, continuare a pagare per quello che voglio, quello che non ho ancora. Quando sentiamo questa canzone sappiamo che stiamo parlando di spesa, di trucchi per la spesa, di strategia per la spesa. Lo facciamo come ogni settimana con la nostra Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Allora, questa settimana di spesa parliamo nel nostro spazio dei consumi? Sì, perché torniamo a parlare di quella che abbiamo definito più volte la tendenza numero uno in questo momento nei consumi, la tendenza antispreco. Nel mondo del cibo, sia quello domestico che della ristorazione, è una filosofia di vita, ha cambiato le abitudini di molti di noi. 6 italiani su 10, secondo un'indagine Coldiretti, mettono in atto strategie contro lo spreco, dal riutilizzo degli avanzi in cucina ad una maggiore attenzione alla data di scadenza dei prodotti, dalla richiesta della doggy bag al ristorante, di cui ricordi Marta abbiamo parlato. Prima ci vergognavamo, adesso si fa. Assolutamente, adesso si fa, fino anche alla spesa a chilometri zero, insomma tutte le strategie, le abitudini che abbiamo raccontato. La novità è che questa battaglia si fa sempre di più via app. Ah, bene. Perché le app appunto sono le nostre alleate, molte le abbiamo già raccontate in questi mesi, le ricordiamo: Last Minute sotto casa per ricevere le offerte dell'ultimo minuto dei negozi sotto casa, oppure B-App. B scritto con due E, frutto della collaborazione tra Banco Alimentare Roma e Fondazione Telecom Italia, che consente ai negozianti di segnalare i prodotti in eccedenza da donare appunto a chi ne ha bisogno. E poi il food sharing, lo scambio di cibo tra privati all'insegna della sharing economy. Se abbiamo calcolato male la spesa, quindi abbiamo una spesa troppo abbondante di prodotti freschi, magari invece dobbiamo partire per le vacanze, anche qui abbiamo il frigorifero pieno, c'è la possibilità attraverso appunto queste app, una è scambiacibo.it, di scambiare e regalare il cibo ad altri che lo consumeranno. Regola numero uno per non sprecare il cibo è l'informazione sul cibo. Ecco perché mi è piaciuta molto, Marta, questa app, si chiama Ubo, che Ubo sta per una buona occasione. Ah, bello, una buona occasione, bello. Esatto, ci suggerisce come, dove e per quanto tempo conservare gli alimenti, perché magari le regole della corretta conservazione, quelle delle nonne, insomma, della buona economia domestica ad un tempo, non sono così chiari a tutti. Ho imparato anche tante cose consultandola. È stata sviluppata da Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. Sono più di 500 finora, pensa, gli alimenti catalogati, e allora me la sono fatta raccontare dal project manager, che si chiama Roberto Corniati. È fondamentale la riduzione degli sprechi attraverso un ragionevole utilizzo degli strumenti, il frigorifero, il congelatore, ecco, di cui oggi godiamo tutti. Come funziona? Una volta scaricata l'app, io inserisco, digito il cibo che mi interessa? Sì, il cibo che interessa, e troverà le corrette modalità di conservazione. Consideri che noi abbiamo utilizzato gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, che sono un'istituzione autorevolissima in ambito alimentare, perché vogliamo coniugare la sicurezza alimentare con l'esigenza di riduzione dello spreco. Non poniamo in antitesi le due cose nel modo più assoluto, anzi riteniamo che l'essere certi della edibilità del cibo è il presupposto necessario per sprecare meno, perché altrimenti se si è incerti, insicuri, buttiamo via tutto. Non solo tempi e modalità di conservazione, ma anche le giuste porzioni. Sì, perché allora fra le cause generative dello spreco alimentare domestico vi è indubbiamente anche l'incerta quantificazione di quanto occorre preparare. Consideri che questo è un elemento che un tempo tutti conoscevamo, no? Era questo insieme di conoscenze empiriche che si chiamavano principi di economia domestica. Oggi alcuni, molti di noi li hanno dimenticati e allora noi vogliamo di nuovo riproporli, questa volta sotto veste scientifica, quindi con la sicurezza degli esperti che ci confortano in questi consigli. La vostra app sfata il mito delle date di scadenza. Allora, le date di scadenza è un argomento davvero delicato. Uno, perché sostanzialmente i consumatori non riescono a cogliere la differenza fra da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro. Dunque, nell'incertezza dell'esatto significato delle due locuzioni, buttano via tutto quando la data viene a scadenza, non sapendo che solo nel primo caso, cioè da consumarsi entro, vi sono delle ragioni di sicurezza alimentare, nell'altro caso da consumarsi preferibilmente invece non vi è alcuna ragione sanitaria, sono solo indicazioni temporali che riguardano la permanenza delle proprietà organolettiche, la fragranza, insomma aspetti che nulla hanno a che vedere con la salubrità del cibo. Dunque la traduzione 2.0 dei concetti di economia domestica che, come diceva lei, appartengono alla nostra tradizione, sono andati perdendosi. A chi è destinata questa app? È destinata essenzialmente ai nativi digitali o come oggi si chiamano i millennials, cioè i ragazzi, insomma, che fra l'altro più utilizzano gli smartphone e a loro abbiamo anche dedicato questa funzione particolare che è la lista della spesa, che consente quindi in modo velocissimo di formare sul smartphone una lista della spesa e di comunicarla via mail. E io ho già preso nota di tutte queste app per fare una spesa più intelligente, magari anche risparmiare un po'. Adesso però è il momento di collegarci con la nostra Cristina Lazzati. Chissà quali sono i suoi suggerimenti questa settimana. Buon pomeriggio, Cristina. Buon pomeriggio, eccoci qui e i miei suggerimenti per la settimana sono un invito a cena scontato. Ah, ottima idea, anche qui prendiamo nota. Allora, The Fork, che è un sito di proprietà di TripAdvisor dove si possono prenotare i ristoranti direttamente dal sito, quindi senza fare neppure la telefonata, per cui pigrissimi possono con un click avere già il tavolo pronto. E dove sempre sul sito ci sono anche una serie di ristoranti che per avvicinare di più i clienti offrono già degli sconti 10, 20, 25%, però dal 25 febbraio al 25 marzo lo sconto sarà sicuro su 500 ristoranti in tutta Italia che offriranno gli sconti proprio per The Fork Festival. Quindi scaricandosi l'app oppure anche sul sito thefork.it si possono prenotare in anticipo se avete l'American Express, perché questo è solo per i possessori di American Express, si può fare già da subito e si possono prenotare, ovviamente stando nelle date dal 25 febbraio al 25 marzo, questi ristoranti di cui alcuni anche stellati. Quindi si ha la possibilità di andarci spendendo più o meno la metà, perché di fatto gli sconti che promette The Fork sono del 50%. E infatti, guarda, io stavo già guardando se ce n'è qualcuno vicino a casa mia, in Brianza, il primo che ho trovato, meno 50%, è vero? Fantastico. È vero? Già, guarda, prenoto. Dicevi, Cristina, mentre io comincio a prenotare? No, comincio a prenotare. Tra l'altro ci sono anche i punti IAMS. I punti IAMS servono è un programma di fidelizzazione, peraltro anche molto interessante per chi utilizzerà e utilizza questa app in maniera continuativa, perché accumulando questi punti si possono avere ulteriori sconti. Sempre per i famosi possessori di American Express, quando si fa la prima prenotazione siano 500 punti invece che 100, però diciamo che con o senza, ovviamente la cosa migliore è guardare già chi c'è in lista, e già da adesso si vedono quali sono i ristoranti top, perché su Milano c'è una doppia scelta, c'è il Festival e i top, e sui top cominciare, come dire, appena scatta l'ora X, prenotarselo subito, perché ovviamente sono tra i primi che velocemente finiscono le prenotazioni, le possibilità di prenotazione. Tra l'altro, sempre The Fork, rispetto alla un pochino più criticata TripAdvisor per via di critiche più o meno, bene o male, credo che tutti, no? Quando andiamo a vedere su TripAdvisor per il ristorante, troviamo in alcuni casi magari delle critiche che non sempre troviamo confacenti poi al ristorante una volta che lo proviamo. Ecco, sul caso di The Fork le critiche sono tutte verificate, nel senso che può scrivere un commento solo chi ha prenotato, mangiato e pagato. Quindi solo coloro che hanno mangiato lì ed è verificato che lo abbiano fatto possono fare il commento sul ristorante, quindi se vogliamo sono quelli che hanno mangiato sul serio. Cristina, c'è ancora qualcos'altro che devi aggiungere su questa iniziativa o ti salutiamo qui? Direi che ci salutiamo qui, buon appetito a tutti. Grazie Cristina, io vado a prenotare allora. Grazie Cristina Lazzati, alla prossimo sabato. Ciao, grazie a presto. A Maria Luisa, invece il tuo consiglio, quello di essere a avere quando? Domani alle 22 come sempre. Ciao e poi a tutti. Il podcast radio24.it. Ricordiamolo, ciao Maria Luisa. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Il sabato del villaggio. Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi, qualcuno ha perso la partita ma non ha subito i fischi, qualcuno non ha mai provato amore nel suo vivere, oppure lo ha provato ma non lo sa descrivere. No, tu non hai capito, no. Sono pazza di questa canzone, l'ho detto al primo ascolto, l'ho detto anche agli ascoltatori del Sabato del Villaggio, quindi lo sanno che io sono sempre stata hashtag Team Scanu e sono felicissima. Sono felice come una bambina, mi hanno appena detto che mi brillano gli occhi per avere qui Valerio Scanu. Ciao, grazie, Valerio. Grazie. Valerio, ciao. Sei... Guarda, l'ho chiesto anche a Enrico Ruggeri, ascoltando adesso il brano di Sanremo, che sensazioni ti si accavallano dentro? Beh, la canzone, indipendentemente da Sanremo, è una signora canzone. È un bellissimo pezzo di Fabrizio, sì, Moro, diciamolo. Assolutamente. Quindi, insomma, è bella. Che gli vuoi dire? No, è bella, sul tu testo, sei bravo, bello, ma sul palco. Ma io sai cos'è? La canzone era già bella, piano, voce, insomma, come la, diciamo, la prima voce di Fabrizio, che diciamo la voce con cui io ho iniziato ad ascoltarla. Ed è la voce che mi ha fatto innamorare del brano. Ecco, questa è. E leviamoci subito il pensiero. Qual è il tuo bilancio di questo Sanremo? Ma ancora è presto, nel senso. Il bilancio. Io sono uno poi molto schietto e sincero, ahimè, dovrei dire che tutto va bene, mentre invece posso anche, cioè devo dire, ma perché se no cioè, mi si legge, io non posso dire che sono contentissimo di come sia andato, perché non è vero, sono rimasto deluso dal risultato finale, ma non per altro, perché per il brano, diciamo il voto della giuria degli esperti è stata un'offesa al brano e un'offesa a uno dei più grandi autori che abbiamo in Italia, che è Fabrizio, e zero non si può. E quindi io penso che ci sia stata proprio una presa di posizione nei confronti dei ragazzi di Amici, perché lo zero non l'ho avuto solo io, ma l'ha avuto Alessio Bernabei, l'ha avuto Annalisa, e insomma Dai, su, zero. Io su ci sono rimasta malissimo, lo dico io e lo posso Cavolo. Dire, ci sono rimasta malissimo. Ma poi non puoi ribaltare così la classifica, perché una presa, la classifica del televoto, perché è una presa nei per i fondelli nei confronti della gente che spende un euro per votare. Sono d'accordo, protesto poi insieme a te, ma anche perché poi questo mi pezzo viene da ridere. Lo sai perché mi viene da ridere? Perché la stessa giuria io la incontro, io non sapevo niente, io ero tredicesimo, vabbè, contento, felice, insomma sono arrivato già a Sanremo e tanto, arrivo, andiamo in sempre il solito ristorante, a un certo punto arriva da mangiare, mentre arriva, solo noi nel ristorante, entra tutta la giuria di qualità. Allora ci siamo guardati, io avevo supposto che ci fosse, cioè che fossi sotto soprattutto per la giuria. Insomma a un certo punto mi chiamano al tavolo perché si mettono ad ascoltare la mia performance di Pavarotti. Questa è una cosa che non ho mai raccontato, no, te la sto dicendo in anteprima. Eh sì, perché c'era Nicoletta Mantovani che fa sentire la mia performance di Pavarotti. E ad un certo punto mi avvicino, stavo fuori, mi chiama, mi fece stampa, mi dice: guarda, ti vuole parlare la signora Mantovani. Entro, mi fa: guarda, complimenti, un'imitazione così, così perfetta, mai, insomma, altri della giuria mi fanno: madonna, ma sei un fenomeno, sei una roba. E io: grazie, cazzo, zero show business, zero spaccato. Però io la cosa diciamo, per cui io lo sapevo. E poi tu c'hai questo caratterino che ti sei portato dietro bello tosto. Ma sai cos'è? Poi eri quello piccolino, che ti dice... eri un ragazzino, facevi arrabbiare tutti, hai fatto arrabbiare tutti. Ma perché tutti io ho sempre detto piccolo. Quello che pensavo, ho fatto Mamma arrabbiare mia, tutti. Ma eri, eri tremendo quando eri piccolo, facevi arrabbiare tutti. Ma perché dicevo quello che pensavo senza filtri. Adesso cerco di mettermi i filtri, ma pure se non parlo mi si legge in faccia. Un po' sì. Valerio, però la classifica che conta è quella, intanto, no, delle vendite. Poi non tutti sanno cosa hai combinato in questi anni. Cioè tu avevi una strada davanti e poi hai capito che quella strada, nonostante fosse apparentemente una strada che ti portava verso un grande successo, non era adatta per te. Ma più che altro, sai cos'è? Quello che io, diciamo, criticavo, se così vogliamo, la mia vecchia casa discografica, era proprio la ricerca di una via, di una strada, di una strategia che fosse la base di tutto. E vabbè, insomma, questa cosa non l'abbiamo trovata, allora me la sono trovata da solo. Abbiamo riassunto. Bello, mi piace l'accelerazione finale, come se fosse una roba facile, invece è un'impresa titanica. Ma sì, che perché tu hai fatto con grande entusiasmo e anche mettendoti in gioco, lo dice anche la canzone, tu ce l'hai messa la faccia in tutti i modi. Certo, è in tutti i luoghi anche. E in tutti i laghi. Senti, te lo devo chiedere, ma tutte le volte che adesso tu la ami, la odi, io sì, io la canto ma io la canto sempre durante i concerti, perché la gente è anche questo quello che vuole, nel senso che per tutte le volte che è una canzone che la gente magari criticata, insomma discussa, ma è una canzone di Sanremo che tutti si ricordano. E se tu dici in tutti i modi, ho gioito in tutti i modi, automaticamente, in tutti i luoghi. Viene da dire quello, quindi è entrato proprio, è diventato un modus dicendi, ecco. Oh, sì, ho capito, Valerio Scanu è uno che parla anche bene, mica solo canta bene, perché io sono hashtag Team Scanu, non a caso. Hai fatto il liceo classico? Sì, ma molti anni prima anche, di te. Anche io. Valerio, e quindi niente, quindi questo. Adesso, allora adesso intanto io ho in mano, finalmente piove, il disco, ce l'ho in mano, esiste. Ci sono due firme che mi incuriosiscono, a parte quella di Fabrizio Moro, quella di Valerio Scanu, perché tu firmi dei brani, sì. E quella di un certo Davide Rossi, che c'ha un cognome che abbiamo già sentito, sì, da qualche parte. Sì, sì, sì. Davide è il figlio di Vasco ed è un ragazzo che scrive molto bene. Ha scritto anche per il mio precedente album Parole di Cristallo. E lui ha una penna molto, cioè, fluente. Lui mette insieme delle parole semplici che però non scontate, ma allo stesso tempo che sono musica anche senza musica. Ecco, lui è musicale e poi scrive da paura, mi piace molto. E poi c'è Valerio Scanu che firma anche. Sì, firmo anche, ogni tanto sai com'è, dici dai, dammi che firmo. No, in realtà noi facciamo, a volte facciamo delle gare d'appalto interne, nel senso, A volte c'è una canzone bella, c'è una musica bella e c'è un testo debole. Allora ci mettiamo, ognuno scrive il suo testo e poi facciamo delle gare d'appalto. A volte le vinco io, a volte no, eh. È il momento questo di rinascere. Hai detto in un'intervista, allora, questa... di rimetterti sulla strada. Sì, ma guarda, Rinascendo, tra l'altro si chiamava Rinascendo dal fango, invece poi abbiamo lasciato Rinascendo, anche se... Saper rinascere dal fango. Mi viene tutta un'emozione. È una canzone, sì, che forse è un po' anche l'emblema di questo periodo. Io sono tornato quando ho iniziato il mio primo disco a autoprodurre il primo disco. Forse nessuno pensava che. Noi l'abbiamo fatto step by step. Ed è una cosa non indifferente, perché che cavolo se lo sarebbe mai aspettato di essere a Sanremo? Poi lasciamo perdere il fatto, io mi aspettavo di più e va bene, ci può stare, tutti ci aspettavamo di più, ma anche chi è arrivato secondo, cioè, ah beh, certo, cavolo, è una gara, cioè è normale, sì. Pensa, quindi... a me che aspettavo di trovare un fidanzato a Sanremo, non ce l'ho fatta, vedi, anch'io ho avuto una certa però delusione. Comunque ti sei messa a cercare, ho lavorato troppo e allora e quindi è così, insomma. Sarebbe stato più facile nel mio caso se avessi preso una persona, un cantante, e diciamo ok, adesso iniziamo un progetto musicale da zero, piuttosto che prendere un Valerio Scanu che c'ha di base tanti pregiudizi, ma perché anch'io ho fatto le mie cagate, insomma. E te l'ho detto, perché sei stato anche un po' antipaticuccio quando eri giovane, te l'ho detto, ma sai cos'è, che a volte la televisione fa vedere non è che ti fa vedere a 360 vero, gradi vero, vero. Cioè ti fa vedere che sbrocca Scanu, ma non ti fa vedere perché sbrocca fondamentalmente. Sì, fantastico. Cioè non ti fa vedere, ti fa vedere il momento dello sbrocco senza dare una motivazione al tutto. Comunque vabbè, ci sta. Non mi ricordo che cosa stavo dicendo, ma non fa niente perché l'abbiamo detto, mi sa. Cioè nel senso, che a volte sarebbe stato più facile prendere una persona ex nove, sì, produrla e portarla a successo, piuttosto che riprendere un progetto che è un po' intaccato dal pregiudizio. Però a me non me ne frega niente. Vai avanti, grandissimo Valerio. Tanto sì, le classifiche stanno dando ragione a te, quindi chi se ne frega. Ma insomma, ma poi la musica, prima di tutto la musica. Va bene Valerio, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Mazza che voce anche quando parla, grazie a Valerio Scanu. Che non si muore per amore è una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. Io vivrò senza te, anche se ancora non so come. Io vivrò senza te. Impossibile rispondere a tutti i tweet, a tutti i messaggi che sono arrivati su Instagram. Veramente Valerio, un ragazzo d'oro, un grandissimo professionista. Io davvero sono hashtag Team Scanu. Tra poco però una breve interruzione, il GR24 delle 17, poi saremo insieme con RadioTube.